I have a simple message. Hold on a little longer. A better America begins tonight. Mitt Romney, nel suo discorso dopo le vittorie in 5 stati diversi, ha detto: ho una sola cosa da dirvi. Tenete duro ancora per poco, con stanotte un'America migliore sta per cominciare. Ha fatto un discorso molto aggressivo nei confronti di Barack Obama, perché Barack Obama continua a fare campagna ormai a livello nazionale. Era in Iowa ieri, è stato in Colorado, è stato in North Carolina il giorno prima, e devo dire che risponde bene alla retorica aggressiva di Romney. Ormai abbiamo ingranato la marcia del confronto nazionale. Nel frattempo nei sondaggi si trova in vantaggio al 47,5%, Mitt Romney al 44%. È una differenza dal punto di vista statistico impercettibile. La mia impressione è che questa sarà una corsa dura, sarà una corsa lunga naturalmente, e sarà una corsa piena di colpi di scena. Tenete presente che se Obama opera già a livello nazionale, Mitt Romney sta appena cominciando a farlo, sta riorganizzando il suo ponte di comando a Boston, sta per assumere altre 200-300 persone e dà un vantaggio. Nel 2008 fu soltanto il 3 maggio che Barack Obama vinse il numero necessario di delegati per poter conquistare con certezza la nomination, e fu soltanto il 7 giugno che Hillary Clinton fece il suo discorso di concessione. Ecco, Mitt Romney si trova, come si dice in America, ahead of the game. Ha già di fatto la vittoria per la nomination in tasca in aprile, e dunque